che sarà la prima serata, prima puntata radiofonica unplugged, o sbaglio? Noi ci scusiamo tantissimo, ma sono problemi di cause superiori, problemi legati all'elettricità dei cavi che collegano le schede audio e i microfoni. Noi purtroppo a questo siamo esenti dalla responsabilità, giusto? Perché la manutenzione c'è stata. Sì, siamo assolutamente esenti. Nel frattempo stiamo provando a mettere almeno della musica di sottofondo, ma anche questo risulta essere un problema al momento. Vediamo, vediamo. Forse sì, sta partendo della musica elettronica di tuo sottofondo, che poi ti volevo porre la tua attenzione in quanto Nostromo di Svarielli. Molto bene. È una cosa. No, non riusciamo a farla partire. È una puntata iconoclasta quella di questa sera. Cioè, proprio ogni cosa che abbia possibilmente una forma deve essere distrutta dalla tecnologia. Potrebbe essere un chiaro presagio nefasto, non sappiamo, però noi invece questa sera parliamo di altro, amico Zero. Possiamo mandare la sigla, direi, mandiamo la sigla e poi parliamo dell'argomento di questa giornata. È sempre tu, giornata unplugged. Sì, ma oggi c'è un nuovo, stiamo coniando un nuovo tipo di unplugged, quindi non lo so come si chiama, unplugged digitale. Questa è un'unplugged digitale, anche molto situazionista, quindi io chiederei a... Situazionanista, quella che ci piace di più, esatto. Quindi io chiedo a tutti di partecipare con la sigla, tutti quanti sigla adesso, e poi cominciamo con la puntata di questa sera. Quindi iniziamo. La sigla, per chi non lo sapesse, si fa, mostri in questo tutorial di sigla. Amica 2, la sigla. Amica 1. Svarielli. Come Svarielli? Scusate ragazzi, è una puntata iconoclasta, l'ho detto. Giustamente svariona, poi cioè, ci sono incroci strani. Sì, è lo stress tecnologico, società molto liquida quella di questa sera. Quindi ricominciamo, dai. Molto unplugged. Cominciamo da capo. Ciclo barra. Facciamo i seri. Il mio cavo che sei rotto. Ottimo assolo di cavi inglesi, complimenti, amico 4. E abbiamo amico 0. Nel frattempo posso fare una leggera telecronica di quello che sta succedendo, perché purtroppo la musica ci ha abbandonato e amico 0 sta cercando di far partire appunto il terminale e per far avere almeno un minimo di sottofondo. Amico Zero, io nel frattempo provo a risolvere il problema. Se tu vuoi introdurre i nostri... Ah, salutiamo anche amico 5. Ero 4 un tempo. Amico 4, scusa. Sono sceso di livello. Buonasera. Scusate, a me mi piace questa cosa che cambiano anche i numeri, oltre che... Scusate. Un cambio atomico dei numeri. Sì. Benissimo, grazie. Allora, no, torniamo a noi, perché purtroppo la puntata ha preso una piega assolutamente non pensata, molto di improvvisazione, amico Zero. Beh, va bene. Ma amico Zero ha detto di seguire il flusso, quindi ora dobbiamo capire tutti insieme se vogliamo andare avanti con appunto l'idea iniziale, ovvero di parlare di Claudio Lopratti, l'angelo della bicicletta, o rimandare la cosa la prossima settimana. Ma secondo me conviene parlarne questa settimana. La farà sentire varie versioni della canzone a lui dedicata. Abbiamo nella ciclobarra due rappresentanti eccezionali di quel fantastico gruppo che sono quella leggenda della musica sudamericana, che hanno, secondo molti, sono i veri creatori di uno stile che è stato definito la cumbia del monte. Signori, nella ciclobarra abbiamo due elementi di spicco, anche dei super cumbia, la Liga dell'Allegria. In questo momento ci stanno sfuggendo come al solito ma con una velina, la velina va. Mi sa che erano attirati verso i forni. Amanti del carboidrato, amanti del carboidrato. Nel frattempo che stiamo appunto mandando la nostra velina, potremmo provare a mandare una canzone in unplugged. Che dice, amico Zero? Vogliamo fare questo? Unplugged. Siamo totalmente in unplugged e proviamo. Sì, sì, ma direi che il sound promette bene, in maniera leggermente così poco tecnofila, audiofila, però molto molto materica. La presentazione, mandiamo questo brano dedicato al Pocio Le Pratti, Claudio Pocio Le Pratti, questo prete attivista per i diritti soprattutto della gioventù. E qui abbiamo finalmente i Super Cumbia che ci stanno raggiungendo. Signori e signori, ecco con noi un'autentica leggenda della musica latinoamericana, i fondatori di quel genere musicale che è stato definito da critici estremi la cumbia del monte. Signori e signore, qui per voi su Radio Spore, sulla ciclo barra Super Cumbia e la Liga dell'Allegria. Oh! Che spettacolo di tribuna. Devo dire che ogni volta che frequentiamo la ciclofficina di Camera d'Aria, uno torna alla sua casa ancora più felice, ancora più ciccione, perché sempre si mangia anche benissimo e certamente pedalando, così non sentiamo questo freddo del cavolo che si sente questo tempo. Come stiamo tutti? Tutti bene? Molto bene, un po' freddo, ma un freddo che si scalda con questo caldo umano. Esatto, è una tribuna bellissima. Quindi niente, oggi siamo stati con questa voglia importantissima di arrivare qui a essere presenti in questa trasmissione speciale, dove ci avevamo messo d'accordo un po' di parlare di questo fenomeno che succede nella città di dove noi veniamo, della città di Rosario, Argentina, dove vedrai che è quasi un fenomeno del record Guinness, è la città con più graffiti di bicicletta sui muri di tutta la città, diciamo. Fantastico, quindi abbiamo questo legame con la città di Rosario, che ci ha fornito non solo i Super Cumbia, ma questa enorme espressione di street art legata alla bicicletta, per due fenomeni differenti che poi vedremo con calma. Uno è legato a Claudio Le Pratti, che poverino lasciò la vita soltanto per dar da mangiare a dei ragazzini durante le sommosse del 2001, ma ci facciamo raccontare qualcosa dal Superman dei Super Cumbia. Bene, praticamente parliamo di Claudio Pocio Le Pratti, che è stato un prete che abitava nei quartieri di emergenza della città di Rosario. Lui è nato nel quartiere, come diciamo noi, il barrio Las Flores, che è un quartiere picante, come si dice anche lì. Pocio Le Pratti è nato all'Uruguay nel anno 66. Tutti lo conoscono come l'angelo della bicicletta. È stato un militante social argentino che è stato ucciso per la polizia della provincia di Santa Fe durante la crisi di dicembre del 2001 in Argentina. Lui è stato conosciuto anche per una canzone, diciamo, oltre tutta la sua vita, certamente dopo è venuto fuori una conoscenza della sua storia, perché un cantante, Leon Gieco, un cantante compositore argentino, ha fatto una canzone di lui, un po' in denuncia di questo successo tragico, chiamiamolo così, dove lui racconta un po' la sua storia. Praticamente questo è un prete che lavorava nel quartiere di emergenza della città di Rosario e un giorno è venuto cacciato dalla polizia, dove davanti ai bambini in questa parrocchia, scuola, sono venuti praticamente a spararle. E lui, dove lui ha lasciato questo urlo che è stato proprio è commovedore, così, dove dice: bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Vuol dire: scendete le armi, che qui ci sono solo i bimbi mangiando. Abbassate le armi. E da qui che dopo è stato ucciso, giusto in questo urlo de... Esatto, la canzone dice: bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. E un'altra roba che ci lega a questo personaggio è che questa canzone è una cumbia, anche è ispirata a una cumbia, in ritmo cumbia. E anche un altro legame, che abbiamo il babbo di un amico, un caro amico qui della ciclofficina, Facundo, il suo babbo Mario Jesus, che lui è un fanatico di questo cantore, lui è anche un militante. E mi ricordo che i nostri inizi, anche come musicisti, quando suonavamo vicino a lui, cantavamo questa canzone, facciamo questa cover proprio sentita, così, a modo un po' di continuare con quello urlo di resistenza. Niente, questa è un po' la storia di Pocho Le Prati, da quella parte, che anche in manifestazione di quella ingiustizia tante persone della città si sono manifestati facendo un stencil in tutte le città, in tutti i muri della città, di una bicicletta, in modo di ricordare a Pocho Le Prati, perché questa bicicletta rappresentava un po' lui. Lui era uno come Don Matteo qui, il prete Don Matteo qui della TV italiana, andava a tutti i posti in bicicletta, quindi un po' in simbolo di ricordare la sua azione. Si vedono biciclette ovunque per tutta la città di Rosario, quindi questa era un po' la storia di quello che dovevamo raccontare di Pocho Le Prati. E niente, è un po' della nostra città di Rosario. Devo dire che grazie Johnny, grazie, è stato l'intervento in assoluto più commovente che abbiamo mai avuto alla Ciclobarra. Veramente, veramente sentito. E quindi cioè, ti vogliamo qua comunque, perché faremo sentire varie versioni di questo pezzo che adesso ci vai a presentare, dopo averci già accennato peraltro. E quindi ti invito a presentarcelo. Bueno, questa è la canzone di Leon Gieco, cantautore argentino, El Ángel de la Bicicleta, dedicato a Pocho Le Prati. Cambiamos ojos por cielo, cambiamos por truenos. Amico Zero, Amico Zero, che gran bel brano, vero? Gran bel, cioè, tra l'altro un applauso per l'introduzione di Johnny e tutto il discorso di Johnny, un applauso veramente con mille mani, mille mani. Ma andiamo avanti, Amico Zero. Ce ne vorrebbero di più, ce ne vorrebbero di più di mille mani per applaudire i nostri amici Super Cumbia e la Liga dell'Allegria. E speriamo di sentirli presto sui grandi palchi. Grandi palchi. Questo è un tasto che possiamo toccare in questo momento. Abbiamo parlato anche con il nostro contatore, lui anche sta aspettando, sì, di tornare nel palco. E siamo con i numeri in zona rosa anche. Abbiamo però fatto recentemente un'intervista a un palco, un signor palco, e il palco brama di Super Cumbia sopra di sé, quindi questa è sicuramente una cosa molto molto positiva, direi. Cioè, ho sentito che erano stati intervistati dei palchi, più di uno se non sbaglio. Sì, sì, sì, sì. E lei, cioè, tutti, non solo palchi di legno tra l'altro, perché si sa che i palchi di legno amano moltissimo Super Cumbia e la Liga dell'Allegria. L'ha recuperato? Sì, sì, certo, perché è un amore ricambiato per questo motivo qua. Però anche altri palchi di metallo hanno detto no, ma pure a noi ci piace Super Cumbia e la Liga dell'Allegria, ce li ascoltiamo tutte le volte che possiamo, e anche a noi la Ciclobarra ci piace molto il nostro gruppo resident di Super Cumbia e la Liga dell'Allegria, e ce li andiamo ad ascoltare direttamente, no? Nostromo, che... assolutamente, sono orgoglioso di mandare come prossimo pezzo un pezzo di Super Cumbia e l'Allegria e la Liga dell'Allegria. Scusate il mio inglese, il mio spagnolo un po' così, un po' barcelloniano, ma qua bisogna avere un accento ben diverso e anche un calore ben diverso nell'ascoltare questa traccia, perché qua siamo direttamente dalla della terra appunto di Claudio Lapratti, che visto che la puntata di questa sera è per parlare appunto di questa persona qua. Adesso però cosa mandiamo? Superman? Una storia d'amore. El peludo del litoral. Ay, ay, ay, ay. Margarita tenía un novio que bailaba, era un huracán. Llevaba los pelos muy locos, el peludo del litoral. Guarda cuánto pelo que tiene ese muchacho, guarda cuánto tiempo pasa con el mar, qué cabello bello lleva con orgullo el peludo del litoral. Guarda cuánto pelo que tiene ese muchacho, guarda cuánto tiempo pasa con el mar, qué cabello bello lleva con orgullo el peludo del litoral. Horas, el peludo del litoral. Guarda cuánto pelo que tiene este muchacho, guarda cuánto tiempo pasa con el mar, qué cabello bello lleva con orgullo el peludo del litoral. Guarda cuánto pelo que tiene este muchacho, guarda cuánto tiempo pasa con el mar, qué cabello bello lleva con orgullo el peludo del litoral. Se hace de... canales del río. Molto bene, qua ancora si parla dell'intervento di Primo sulle propti. E amico zero, no, funziona tutto. Siamo. Chiediamo scusa perché abbiamo tirato fuori la pizza e quindi si sente, scusate. Sticchio, spento la musica di sottofondo. Odore radiofonico. Odore radiofonico di carboidrato. Siamo tutti amanti del carboidrato, direi. Ok, ok. Allora, amico zero. Grazie ancora a Super Cumbia e la Liga dell'Allegria per la loro collaborazione nella ciclofficina popolare Camere d'Aria, per la loro collaborazione alla ciclobarra, basta, per la loro collaborazione in tutte le cose valide. Grazie ancora. Come possiamo andare avanti con questa puntata su, appunto, dica amico 5? Scoppiettante, no, è piccante, piccante. Ok, no, allora potremmo avere un'altra intervista, una intervista scottante. Chi... qua c'è un sacco di gente che vorrebbe, ovviamente a livello virtuale, siamo tutti collegati da Zoom per tempi morti qua sulla radio della ciclobarra di Camere d'Aria si sta mangiando, quindi utilizzate questo tempo vuoto per riflettere. Mandiamo un brano. Questo è un brano. No, quello era il sottofondo previsto. Quello era il sottofondo. Ottimo, allora direi riprendiamo in mano la situazione. Purtroppo abbiamo avuto un momento di defaillance dato dal carboidrato e quando è troppo si fa in picco glicemico. Io possiamo andare, appunto, Jack Russell, Trappone, la bici è il titolo. Mi hanno spiegato che questa musica si chiama Trap. Io l'avevo scelta, ma non ne sapevo niente. Pensavo ancora che si trattasse tipo di hip hop o cose di quel genere. Chissà chi avrà, appunto, i ragazzi giovani mi hanno spiegato queste cose, mi hanno detto uè giurassico, questo è... lo sai che questo è trap e tu non ne sai un cazzo. Ha detto scusate ragazzi, le trap house di San Lazzaro. E il brano qual è, quindi? Ah, ok, è quello che stiamo sentendo. Ando en una bici pedaleando super high, bombiri bye bye, ya no veo. veo nada, pero todo está rulay, ay. Bombiri bye bye. Ando pedaleando en una bici super high, ay. Bombiri bye bye. Ya no veo nada, pero todo está rulay, ay. Ando en una bici, todo está rulay. Ando pedaleando, ando super high. Bye bye, voy saliendo pa' Holanda. Bendito a mis cadenas y mande lucas pa' Ruanda. Quisiera financiar todos los piratas de Somalia, pa' que le metan fuego a quienes invaden sus aguas. CNN no habla nada de eso, no. Yo no sé qué es lo que mierda pasa. Tan pendiente de la gorra de Kanye. El humano es subjetivo por pendejo ejo. Por eso es que se mueren todos llenos de complejos. Bombiri bye bye. Ando en una bici pedaleando super high, ay. Bombiri bye bye. Ya no veo nada, pero todo está rulay, ay. Bombiri bye bye. Ando pedaleando en una bici super high, ay. Bombiri bye bye. Ya no veo nada, pero todo está rulay, ay. Todo está rulay. Sigo yo en la bici, halo en WA, con el flow de Easy. Y voy llegando pa' Compton, todo vestido de rojo en una bici de cholo. Si quieres matar sapo, yo te llevo pa'l charco, pa' ver si es que es real esa película en narco. No, es mentira, tú no tienes draco, no. Y si tienes es porque eres Paco. Se quieren vivir una movie de Pablo. Carajitos mojoneros por naturaleza. Por eso es que no los quieren ni en sus propias casas. Bombiri bye bye. Ando en una bici pedaleando super high, ay. Bombiri bye bye. Ya no veo nada, pero todo está rulay, ay. Bombiri bye bye. Ando pedaleando en una bici super high, ay. Bombiri bye bye. Ya no veo nada, pero todo está rulay, ay. Con questo trappone qua ci stiamo avviando su questa ciclobarra per la prima volta in versione unplugged digitale, veramente condizioni tecniche un po' difficili. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici che sono importanti, amico Zero, sono quasi catartici, perché ti aiutano a trovare nuove dinamiche a livello quasi spirituale, di sbaglio? Esatto, infatti così diventa ancora più forte questa tensione verso il prossimo concerto con DJ set dell'equipaggio Svarielli, tutto, non si capirà niente. Esatto, secondo me proprio questa è gente che entra, gente che esce. Fare cose e vedere anche gente in fondo. Quindi bene, io direi che la puntata di oggi comunque è stata è stata proprio una chicca, perché abbiamo avuto appunto l'intervento di Johnny Cumbia, veramente Johnny Conga, di una profondità quasi toccante, diciamo, che anche a me è piaciuta tantissimo. Toccante, direi. Okay. Non si incassi però. Si immagini, per così poco. Non mi ha mica tagliato la strada con un SUV a quattro marmitte. Ah, questo lo dice lei, non sa chi era stamattina alla guida di quel BMW. Comunque, io direi, possiamo dare un brano. Ero io, esatto. Infatti, uno era io e uno era l'altro. Amico 4, lei sa benissimo di quello di cui sto parlando. E io direi, possiamo dare una canzone di chiusura e poi ci risentiamo la prossima settimana, anzi quella dopo, per parlare con un altro amico, lo sciamano metropolitano, del problema delle bici e... Cioè, delle bici... I Ravaldoni, dicono a Bologna, mi hanno detto. Ravaldoggi? Ravaldone si intende... il mezzo parcheggiato ormai da anni, magari dove sono avvenute delle ruberie, delle rubizie della briganteria, e quindi ecco rimangono lì così da arredo urbano. Ok, questa è una succosa anteprima di quello di cui andremo a parlare fra due settimane nella prossima puntata appunto di Ciclo Barra. E quindi niente, ci salutiamo con quale brano, amico Zero? Il brano è Michele in bici di Riviera o dei Riviera. Ah, grande Riviera, grande Riviera. Quindi Michele in bici, Riviera, e ci salutiamo con questo bellissimo brano. Aio. Secondo me qua qualcuno ha rubato una...